Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci. L'arbitrato delle eventuali situazioni di, diciamo così, potenziale truffa si è fatto da un'autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone, un'assoluta garanzia di terzietà e indipendenza. Mortale, il mercato mondiale, il mercato rionale, la croce del sud e la stella polare. Su queste cose, meno male che il governo ha fatto il decreto, se non c'era il decreto saltava in aria una parte importante del risparmio. Fine all'orrore, la vita ci insegna che vale solo l'amore. Nessun timore, nessuna preoccupazione e anzi la volontà di dare un segnale molto chiaro, come dimostra la scelta di Cantone. È una situazione mediatica, sappiamo che Matteo Renzi utilizza Cantone ormai per tutto, anche per dirigere il traffico. Conversione dell'energia, il colpo di coda dell'economia. Effettivamente è un problemuccio che anch'io avevo a casa con una porta che non riesco molto bene a sistemare. Stavo per chiamare il fabbro, ma a questo punto, se Cantone potesse allungarsi un po' a Milano, io volentieri magari, insomma, faccio anche due chiacchiere, gli offro un caffè e se mi risolve il problema della porta... Signori, dai che è venerdì, forza, forza. Niang, il controllo, il e destro andiamo. Ed è il vantaggio del Milan. Mbaye Niang. Un po' più di entusiasmo però, telecronista, dai, dai, un bel gol di Niang. Su, su. Salvati, salviamoci, salvati. La pacca guadagna metri e firma il 2-0, la chiude qui in Milano. E andiamo, e andiamo, e andiamo. Grande serata di giovedì che prelude al venerdì. Salvami, salvami. 130, oh porca miseria, ho perso il conto. Che figuraccia. 137esima settimana decisiva per l'abolizione delle province che va a concludersi. Parlamento che va ad aprirsi. Quindi semmai ci vediamo più tardi. Ci vediamo più tardi, ministro Boschi, alle 9 più o meno, alle 9 inizia la mozione di sfiducia al ministro Boschi. Ovviamente alla Camera. Attenzione, comunicazione importante. Si voterà solo alla Camera, non al Senato, anche se è stata presentata la mozione anche al Senato. Ma per tradizione, per storia, non è mai stata votata una mozione due volte la stessa mozione di sfiducia. Quindi se non passa alla Camera non verrà votata al Senato. E pare che il commento un po' puntuto del ministro Boschi sia stato: peggio per i grillini che l'hanno votata, l'hanno presentata prima alla Camera. Alla Camera. E quindi niente, mi sa che solo alla Camera si voterà, il voto abbastanza scontato. Comunque oggi sono serenissima, dice Maria Elena Boschi, e alle 6:33 minuti è serenissima come il nostro Lorenzo Nespoli perché è venerdì, come il nostro Peter Bescapè in regia perché è venerdì, chissà se è serenissima anche la nostra Chiara, Chiaretta. Buongiorno. Chiaretta Geloni, sicuramente. Sono serena. Sei serena? Sì. Stai serena. Sto serena da tempo. Sì. Quella serenità un po' così, da tempo. Allora, insieme a te, cara Chiara Geloni, e voglio salutare, torna con noi la presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali, Carla Rocchi. Buongiorno, come sta? Buongiorno, buongiorno cari, buongiorno a tutti, buongiorno Chiara. Buongiorno, buongiorno Carla. Sì, abbiamo scoperto questa carrambata, vi giuro che non è assolutamente voluta, ma ieri quando abbiamo chiamato Chiara Geroni ci ha detto una cosa che vorrei che tu raccontassi ai nostri, ti abbiamo detto ci sarà proprio ve la siete cantata così, sì, eh? Detto, ci sarà Carla Rocchi con te, e tu cosa hai risposto? La mia ex vicina di casa. Praticamente con i vicini di casa, mamma mia. E che, raccontaci. Abitava al piano di sopra per un po'. Raccontaci poi come una meteora e poi è sparita. Al purtroppo. Piano di sopra, racconta, è il momento di tirare fuori tutti i sassi che hai nelle scarpe. Che rumori molesti faceva Carla? Perché non era l'appartamento proprio sopra il mio, era quello di fianco, quindi non so se porta i tacchi in casa, non vabbè, insomma, dirvi. È il momento di lamentarsi, Carla Rocchi, alle riunioni di condominio, Chiara Geloni come rompeva le scatole? Ma figuriamoci, Chiara Geloni dava allegria a questo posto, e poi siccome Roma è un posto piccolo si abita sempre sopra o sotto qualcuno. Ah beh, certo, cioè, Chiara Geloni dava allegria alle riunioni di condominio, voi vi rendete conto? Cioè, l'unica donna che riesce ad animare in maniera allegra una riunione di condominio. Ma te l'ho detto che sono serena, tu non ci credi, invece è così. Vabbè, sei serena. Senti, ma anche il ministro Boschi deve stare serena. Adesso ricordati che sei una donna di sinistra. No, ricordati che sei del Partito Democratico. No, deve stare assolutamente serena, perché come hai detto anche tu, la mozione non ha i numeri per passare, mm-hmm. non passerà, quindi diciamo che sì, la giornata non presenta particolari insidie per lei, il Partito Democratico la difende, quindi io credo che insomma la mossa di presentare una mozione di sfiducia individuale alla Camera da parte dei grillini effettivamente è stata un po' goffa. Il problema non è questo, cioè lei... Vabbè, ma non pensavano mica di farla passare, non pensavano mica forse, di vincere. Ma forse, appunto, no. non è stata presentata per essere approvata, ma appunto per sottolineare un passaggio politico. Penso però che sarebbe molto importante che lei oggi non ostentasse troppa sicurezza e non si presentasse in aula con un atteggiamento di sfida, come mi sembra che un po' abbia avuto nei giorni scorsi. Dice che è un po'... l'ho trovata un po', sì, forse un pochino troppo aggressiva rispetto aggressiva. A un problema che c'è, cioè non è che è una tragedia quella che è successa, e se ci sono delle richieste di chiarezza al governo non devono essere... scaricate. No, la tragedia sì, ma lei dice io non c'entro, cioè non è che ha mostrato prezzo nei confronti di quelli che hanno perso i soldi, però dice la mia famiglia insomma viene tirata per esempio, in ballo. Adesso io penso che non è che lo imputo a lei, ma il decreto che è stato fatto e che giustamente Renzi dice meno male che l'abbiamo fatto, se non lo facevamo avrebbe va bene, però lo potevano forse fare meglio. Con più attenzione a cose che infatti adesso poi a cose fatte stanno emergendo e di cui il governo si sta facendo anche carico, cioè la questione della tutela delle persone che sono state truffate. Sì, sì, sì, arriva Cantone, c'è signor Cantone. Vuol dire che forse il decreto poteva essere fatto con più attenzione. Ma tranquilli, tanto su quello c'è il signor Cantone. Carla Rocchi, c'è qualche cosa da sistemare da parte di Cantone? Io non so Cantone come possa, poveromo, fare fronte a tutte queste aspettative, perché poi gli si attribuiscono delle facoltà medianiche, che ne so. Qui sì, più o meno. Poi qui c'è una situazione che viene percepita come una tragedia. Io ho trovato un punto terribilmente stridente quando la Boschi è andata alla Leopolda. Sì. Ha detto sono qui e le azioni che sono state fatte su di me sono state molto divertenti. Ecco, ci sono dei termini che alle volte sfuggono alle persone. Io penso che di divertente in questa situazione ci sia nulla, per nessuno. Però ma deve stare tranquilla, anche lei ha bazzicato il Parlamento, Carla Rocchi. Devono stare tutti tranquilli, però esistono delle cose impalpabili che non si possono esorcizzare. Cioè in questo momento la mozione non passerà, la fiducia è rinnovata, il governo è saldo, si fa quadrato, tutto quello che volete. Però io, insomma, non è una situazione comodissima, questa è una cosa che non verrà smaltita molto rapidamente. Significa che tutte le volte che ci sarà una situazione, un confronto, una cosa pubblica, questa roba può tornare fuori, se non altro come pretesto, se non altro come attacco possibile. Guardate che è una situazione scomoda, eh? No, ma è molto scomoda. Oggi Repubblica ha detto la frase che io ho messo su Twitter, ed è questa: sono le frasi che peggio fanno a Renzi, no? Quando immagino legge a pagina 2. Questa vicenda delle banche, senti bene, Chiara Gironi, sì. Questa vicenda delle banche ha messo in dubbio lo storytelling e il racconto renziano. È lo storytelling. No, ma non mi si è bloccato lo storytelling. Mi si è bloccato lo storytelling. È un disastro. Questo. E potresti chiamare Cantone. Chiamiamo Cantone. Cantone. Cantone. C'è da sbloccare lo storytelling. È così. È vero. Un po' è vero che questa cosa ha rotto un po' un incantesimo intorno a Renzi, che ha condizionato un po' le vicende degli ultimi giorni, insomma, anche la Leopolda stessa, ne avete già parlato nella trasmissione, ma insomma, così c'è un incantesimo che è un po'... Si è un po' rotto, soprattutto hanno interrotto questo racconto sulle origini, perché loro ci tengono a dire che provengono siamo ragazzi di provincia. Dai contadini, sì, dalle origini... Perché ridi? Non è vero? Adesso sì, anch'io sono una ragazza di provincia, sai. Non è che voglio dire, non c'è niente di, non è né un merito né un difetto, dato di fatto. Ma anche Berlusconi, Arcore in provincia, insomma, poi... Appunto, anche Berlusconi è un ragazzo di provincia. Sì. Quindi... E allora viene fuori che l'unica di città sono io. infatti, Romana Doc lì, nata e cresciuta sui fori imperiali, praticamente, sì, Carlo. Sì, è la mia condizione di privilegio, ma in tutta questa storia c'è un dato, che quando ci si deve giustificare il guaio è serio. Pensiamo allo stemma, a quello che è scritto sullo stemma dei Windsor, che suona così: non ci si lamenta, non ci si giustifica. Sì. Ecco, quando il non ci si giustifica sta nello stemma di una casa reale, vuol dire che giustificarsi è proprio una robaccia, è una cosa pesante, è fastidioso. Si parla di qualcosa e qualcuno ti ritira fuori una storia e tu ti devi giustificare, perdi il filo. E perdi lo storytelling, perdi il racconto, c'è la perdita dello storytelling, è terribile questa cosa della perdita dello storytelling, non so quando si riprenderà. Ma quando c'è... perdi lo storytelling, signora mia. Esatto, come ci scrive Vincenzo Cantone, lo chiameremo signor Archimede, quello che sistema tutto, è Cantone, pensaci tu come Scooby-Doo, ve lo ricordate? Vabbè. I messaggi al 349-238-6666. Allora, c'è da dire anche questo. Se Renzi è in difficoltà, non è che al centrodestra stiano un po' meglio. Non te lo contesto. Come al solito, il migliore è Brunetta. Brunetta ha fatto un'intervista oggi a Repubblica. Gli hanno detto: guardi che Romani, che è il capogruppo al Senato, è contro di chi? Romani, chi? Non lo conosco. E io te lo vedete, non lo conosco. Brunetta, sentite. Io non ci starò mai, e io sono qui per farlo cadere. Io sono qui con tutto il centrodestra, con il mio partito innanzitutto, Forza Italia, con Berlusconi e con tutto il centrodestra unito per farlo cadere. Ma quale unito, Brunetta? Quale unito, Rocchi? A momenti gli fanno gli sgambetti mentre fa le scale lì alla Camera. È fantastico, tutto il centrodestra unito. Tutto. Facciamo un'analisi lessicale di questa affermazione, tutto. Tono, e poi vogliamo dire anche un po' di senso di sé. Che Brunetta ha una sensazione di sé gigantesca, legittima, però improbabile, perché che fa cadere? Che fa cadere, secondo me il prossimo previsione non del tutto improbabile è che tra un po' lo faccia lui il capogruppo, perché sono tutti inferociti anche di questa modalità, di questo. Lì stanno un po' tutti attaccati alla canna del gas, e Brunetta, dai che gli fa sti scherzi. Io sono convinta che la lite in Parlamento non è stata determinante per quasi nulla, ma è stata un eccellente pretesto. E siccome in politica quello che conta non è quello che è vero, ma quello che è verosimile, l'uomo non è... Ha detto: io sono la bestia nera di Renzi. Se queste sono le bestie nere di Renzi può andare in carrozza. Ben altre sono le situazioni. Perché la gente non tace qualche volta? Che sarebbe proprio una cosa meravigliosa. Sì. Però il centrodestra è un po' in subbuglio. Chiara, ma cosa fa il capogruppo? È un ruolo così importante, cioè il capogruppo alla Camera. Cioè... No, il capogruppo ha un ruolo importantissimo. Adesso, diciamo, il Parlamento in questo... Ma spiegacelo, cioè cosa fa esattamente? Un po' pochino rispetto anche al passato. Ma il ruolo di un capogruppo... magari si vede poco, poi dipende insomma dal tipo di personalità, ma determina tantissime delle cose che vediamo, giudichiamo della politica, cioè il fatto che certi conflitti per esempio possano essere composti prima di arrivare a essere conosciuti pubblicamente, dipende dal capogruppo. L'armonia, cioè, cos'è, il grande psicologo del gruppo, un po' il capitano. Uno che tiene insieme una squadra e a tenere armonia mettono Brunetta. Posso spezzare una piccolissima non per difendere nessuno, tutti sanno diciamo che non sono sospettabili di simpatie né per Forza Italia né per Brunetta, ma l'incertezza strategica, la confusione, le divisioni di Forza Italia non sono colpa solo di Brunetta, perché anche lui, diciamo, fa quello che può in una situazione dove Berlusconi cambia idea tutti i giorni. Sì. E nessuno dà più retta a Berlusconi sulle riforme, si è passati da essere padri costituenti e portare Renzi in carrozza a fare il governo per le riforme, a votare contro, uscire dall'aula. Insomma, tu dici che è un po' sulla stessa mezzo questione disastro. Dei giudici, è vero che secondo me Renzi aveva sbagliato strategia, perché non si può escludere a priori il secondo gruppo più numeroso, cioè il Movimento 5 Stelle, ma Forza Italia non riusciva a votare i voti perché mezza Forza Italia votava in un modo e mezza in un altro. La situazione è complicata. Rocchi, che voleva aggiungere? Allora, volevo dire questo, che io sono stata capogruppo dei miei. Ah, dei Verdi. Lontano. Il capogruppo in realtà ha un grosso margine di manovra, ce l'ha interno sicuramente se ha un filo di autorevolezza, ma ce l'ha soprattutto esterno. Quando c'è la riunione dei capigruppo, lì si negoziano molte cose, si negozia il calendario dell'aula per esempio, si negoziano le priorità, e siccome alla fine anche il mio non era un gruppo stratosferico, intendiamoci. Quanti eravate, capo? Siamo pochi, non me lo fate dire che è di una modestia assoluta, lasciatemi questa illusione, però era un momento, come posso dire, un momento felice. Il presidente era Spadolini, immaginate a che presidente del Senato, immaginatevi a cosa ci riferiamo, però in realtà ci sono molte cose che passano attraverso quella situazione, come sempre succede, e certo che se uno è proprio incazzosissimo è un ruolo di mediazione appunto, devi mediare, mette i Brunetta. Ma insomma sono domande che lasciamo al traffico. Intanto ci chiede Andrea un problema, le è andato in blocco la caldaia, potete darci il numero di Cantone? Adesso Andrea provvediamo in via privata magari dopo il traffico. A Milano mi vedo sentire il traffico, dai, sci, dai una botta. Buongiorno Rino, Brunetta ha dimostrato che se fosse un pesce non ci sarebbe bisogno di canna, figo, amo ed esca, basta mettere via padella e lui ci salta dentro. Per il capodanno a Roma andassero i cantautori italiani gratis, almeno la città non muore. Mi fa un pochettino specie Renzi, che dice di schierarsi sempre dalla parte della povera gente. Io mi ritengo di far parte della povera gente, e Renzi sicuramente non è mai stato dalla mia parte. Sottoscano, sottoscano, con le banche ci faccio il grano, e il risparmiatore te lo lascio nel guano. Milan, perché non organizziamo una cena tutti gli ascoltatori di 24 mattino? Offri tu ovviamente. Allora, lo faremo. Ovviamente questo ascoltatore mette le cose a tre quarti, insomma, la frase era perfetta fino al finale. Faremo una bella festa di primavera, dai, una bella festa di primavera a Milano, ovviamente. Attrezzatevi, ci sono degli belli alberghi, andate a casa di Lorenzo Nespoli, poi per la serata, soprattutto belle donne, anche a casa di Peter Bescapè, se volete, e via. Allora, siete invitate anche Chiara Geloni, Carla Rocca, giochi tutti, tutti ovviamente. Grazie. Tutti non ovviamente. Mancherete. Non mancherete. D'altronde voi le feste lì a Roma non le potete fare più. Oggi ci occuperemo di questa cosa anche alle 8:20. No, c'è tronca. No, bisogna dirlo più. Tronca. È più deciso, Chiara, devi essere un po' più... Tronca, così. Okay. C'è tronca, il prefetto tronca. Cara Carla Rocchi, hai voluto cacciare Marino? Adesso c'è tronca. Guardate, io comincio a avere degli inquietanti sentimenti di nostalgia. Eccola lì. Mi divertivo tanto di più. E invece no. Adesso... E invece vedi che roba, non si deve buttare niente. No. Fino al Capodanno non si deve buttare niente. Neanche un concertino. Ieri Vladimir Luxuria a questi microfoni ha detto alle 9:30 Brodino per cena. Brodino, caldo. Questo è il Capodanno di tronca. Poi c'è magari, non so, un pepepepe alle 10:15, goccino di rosolio per brindare e a nanna tra le 11:20 e le 11:45. Va bene Chiara? Va bene. Sì, insomma, io invece diciamo non è che ho più nostalgia, ma insomma neanche mi devo pentire, perché sì, io non sono stata favorevole a quello che è stato fatto a Marino. È vero. Credo che se ci fosse ancora Marino ci sarebbe il concerto. I giornali ma guarda, io non lo so se ci sarebbe il concerto, secondo me Marino, a costo di suonare lui la chitarra, il concerto lo faceva. Ma soprattutto la città di Roma è governata malissimo. Adesso ieri di nuovo targhe alterne, tutto gestito in una maniera che senza nessun tipo di attenzione alla vita delle persone, che si trovano in disagi pazzeschi per provvedimenti che vengono presi tardi, comunicati male. Ecco, per la metà della metà della metà Marino sarebbe stato crocifisso tutti i giorni. Nessuno dice più niente. Ah certo, che dicevi Rocchi di Marino? Dicevo questo, che Marino aveva fatto le prove generali del veglione di Capodanno, perché sui fori imperiali, da quando le ha pedonalizzati, c'è di tutto: gli intillimani, i nipoti degli intillimani, piatti, cose, batterie. È bello, non è bello, una città viva, una città. Com'è triste? È triste perché una città che suona, una città musicale, una città. Intanto suonano malissimo, e poi è tutto molto anacronistico: c'è chi suona una cosa, chi ne suona un'altra, è una confusione. Insomma, è anche in quello che potrebbe essere. Più che un. Un momento è cacofonico. Cacofonico. E mettessero adesso tronca, metterà una legge che dà almeno 50 metri tra un suonatore e l'altro. Così, così. Ma no, tronca deciderà lui cosa si deve suonare. Oppure chiamiamo Cantone. Che dobbiamo fare? Oppure chiamiamo Cantone a risolvere la questione. Ma è quasi Natale. Io voglio capire da Carla Rocchi, insomma, che cosa si può mangiare nei cenoni di Natale, perché attenzione Chiara, qua abbiamo giustamente la Presidente Internazionale di Protezione Animale, non metterà mai un cappone per fare un brodo, piuttosto che, non so, una faraona in tavola, un che se mangia a Natale, insomma, queste, anche il ravioli di brasato, non si può, i cappelletti, No. Guardate, è molto semplice, si mangia tutto quello che c'è di buono e si scartano tutti i morti, i defunti, le pellacchie, la spremuta di budella, ecco, queste cose qua si scartano, il resto che è buono si mangia. Una bella carotina, un po' un Natale alla tronca, carote, pinzimoni. È un mondo molto più felice. È un mondo felice, però le faccio sentire la brambilla. Certo che una che combatte per gli animali come la brambilla, non so se c'era all'epoca in Parlamento, sentite qui la brambilla. Non è più il tempo di assurdi divieti, cartelli "io non posso entrare" devono scomparire. Noi ci rendiamo interpreti delle istanze di milioni di italiani che convivono con il proprio animale domestico e vogliono poterlo portare con sé ovunque. Anche nei negozi, ma non posso entrare il cane. La brambilla ha ragione, io l'ho scoperta, non era con me in Parlamento, siamo state, uno entrava e l'altro usciva, per dire, però è una persona che ha gli animali in casa, che le cose che fa le fa perché le fa veramente, non soltanto le dice, E insomma, e ottiene risultati e tanto di cappello. Tanto di cappello, veramente. Bene, vabbè. Tu, Chiara, mangerai qualcosa di vietato? Non da tronca, ma dalla Rocchi. Vietato da Carla, forse sì. Mi sa di sì, mi sa anch'io. Ma Carla Rocchi è così, è magnanima, dice viva la libertà, sbagliate, ma viva la libertà. Allora, vi ringrazio, vi faccio gli auguri di Natale, Carla Rocchi, Chiara Geloni, grazie per essere state con noi. È venerdì ed è il momento del giornale radio. Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan. Ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, le 7:17 minuti. Forza che è venerdì, dai, la 137esima settimana decisiva per l'abolizione delle province si conclude. C'è la 138esima, è di Natale, quindi è un po' più difficile che accada questo, ma chi lo sa. Ora noi intanto andiamo a leggere i giornali. È venerdì 18 dicembre, i titoli, il Sole 24 Ore, borse in rally dopo la Fed, la svolta rafforza il dollaro. Questo è il titolo di prima pagina. Poi la questione banche ancora in primo piano per il Corriere della Sera. Tensione governo Banca Italia. Repubblica, banche, Renzi chiama Cantone, Etruria, ecco le accuse ai manager. Il Fatto Quotidiano, Renzi sfiducia Visco e Vegas, ma Mattarella salva Banca Italia. Libero invece, perché deve dimettersi e perché Renzi la salverà. È ovviamente il tema Boschi in primo piano. Poi c'è chi ha invece uno sguardo un po' più ampio europeo, la stampa, Turchia e USA, Putin alza il tiro, questo è il titolo di prima pagina, mentre il Messaggero, Renzi, basta Unione Europea a guida tedesca. Il Giornale, si torna sulle banche, la Boschi regge, Renzi meno. Il Manifesto, sotto Boschi, e ci sono c'è la foto di Maria Elena Boschi e Matteo Renzi insieme, mentre arbitra Cantone, il titolo dell'Unità, e dunque si ritorna alla questione banche e alle arbitrati affidati al presidente dell'autorità anticorruzione. Ma da cosa voglio partire? Beh, c'è una straordinaria intervista, come tutte le interviste che fa lui, Claudio Sabelli Fioretti, a Totò Cuffaro sul Fatto Quotidiano. Sono due pagine che non sono perdibili assolutamente. E le trovate pagina 12 e 13. Il titolo è questo: Cuffaro, questo PD ricorda la mia Democrazia Cristiana, voterei per Renzi. È un Totò Cuffaro in realtà che parla per due pagine, anche e soprattutto della sua esperienza in carcere, a cominciare da quando si presentò il giorno dell'arresto ma mancava l'ordine di carcerazione. Dunque ho telefonato al mio avvocato, qui non mi vogliono, datti da fare, mi impuntai. Dopo 9 ore arrivò l'ordine di carcerazione, il mio avvocato mi chiamò, farti arrestare è stata la cosa più difficile del mondo. Arriva uno dei carabinieri del ROS, mi mette le manette. E il comandante dice: ma cosa gli fai? Gli stai mettendo le manette? Si è costituito. E il ROS: questa è la legge. Ma il comandante risponde: ma non vuole scappare, le ordino di togliere le manette. E le tolsero le manette. Sì, le tolse con rabbia questo ROS, ma appena in macchina me le rimise incazzatissimo. È la dura vita di chi si costituisce. Arrivammo in carcere, il comandante del carcere disse: ma che c'entrano le manette? E io: lo dica al carabiniere del ROS. E il carabiniere del ROS, un po' imbarazzato, il comandante del carcere, dice: gli tolga le manette, non ho le chiavi. Alla fine, insomma, racconta tutto questo inizio di rapporto col carcere. A un certo punto il comandante del carcere liquida il carabiniere del ROS e dica: vabbè, gliele tolgo io le manette. E da cosa hai imparato da tutta questa vicenda? Ho imparato una cosa importante: mai fidarsi del ROS. No, risponde Cuffaro, che tutte le chiavi delle manette sono uguali. E continua così, poi un racconto del carcere, che dice è un carcere che dovrebbe essere un luogo di redenzione e rieducazione, invece è un luogo di sofferenza e morte. Non è vero che in Italia non esiste la pena di morte, 150 suicidi nelle carceri, quasi tutti ergastolani. Di fianco alla mia cella uno si è ucciso tagliandosi contemporaneamente le due giugulari con le lamette Bic, aveva l'ergastolo e io ho ancora il tanfo del carcere addosso. I primi due giorni mi sono fatto 14 docce, ma il tanfo rimane. Il cibo è immangiabile, tranne l'insalata o il pollo, il resto bisogna farselo da soli, la carne sembra chewing gum. E io? Lei che faceva? Avevate il bagno? Io parlavo con la turca per 5 anni. La turca mi spiegava che era un cesso, anche se non sembrava. Un giorno ero uscito per fare degli esami clinici, sono andato al gabinetto, ho aperto la porta, ho avuto una visione, la tazza del cesso. Mi sono commosso, mi sono messo a piangere. Sedermi sulla tazza del cesso è stata una sensazione indescrivibile. Non riuscivo più ad alzarmi. Questo è Totò Cuffaro che parla. Poi ovviamente parla anche di politica. Voterei là dove si trovasse Casini. Non voterei mai la sinistra, ma dire che Matteo Renzi è di sinistra mi pare un po' esagerato. Riconosco a Renzi la volontà di fare, ma dovrebbe avere meno spocchia. Lei era chiamato Vasa Vasa, baciava tutti, anche in carcere, tantissimo. L'ultimo giorno mi hanno festeggiato e hanno cantato in italiano Hurricane e ho cominciato a piangere e a baciare tutti. Ma quando è venuto il Papa, è lui che ha baciato me quando è venuto a visitarci. Vabbè, Totò Cuffaro, Totò Vasa Vasa. Ripeto, intervista che non potete assolutamente perdervi. Claudio Sabelli Fioretti lo intervista per il Fatto Quotidiano, pagina 12 e 13, racconta anche di tante altre cose ovviamente in questa lunga intervista. Io ho lasciato la prima pagina di Avvenire da parte perché la cito ora. La vita non si affitta, questo è il titolo di prima pagina di Avvenire. Ne abbiamo parlato anche con Oscar Giannino la settimana scorsa sulla maternità surrogata, o più brutalmente l'utero in affitto, cioè coloro che vanno a pagare una madre che porta avanti una gravidanza per loro e poi quando mette al mondo il bambino o la bambina, in base a un contratto, a un regolare contratto, dà questo bambino alla madre, alla coppia che l'ha voluto, insomma, l'ha voluto, l'ha comprato, chiamatelo come dite come volete. La vita non si affitta. L'Europa, Strasburgo, ha votato contro la maternità surrogata. Questo è il voto del Parlamento di Strasburgo che approva questa condanna. La maternità surrogata offende la donna. Avvenire ne parla pagina 5. Lo leggo perché proprio in questo giorno e proprio oggi il Corriere della Sera fa un servizio molto interessante. È da giorni che il Corriere della Sera parla di maternità surrogata. Monica Ricci Sargentini va, a pagina 25 del Corriere lo racconta, in una clinica a Santa Monica, Los Angeles, dove si può fare la maternità surrogata. È un racconto che viene proposto molto asettico. Eccolo qui, sul sito California Premium Surrogacy si clicca su genitori intenzionali, si compila il modulo e si può arrivare lì. E la risposta arriva entro poche ore. Buongiorno, sono Julie Webb, coordinatrice dei pazienti. Sono contenta che tu sia venuta a trovarci dall'Italia. Inizia così il rapporto con questa clinica. La mamma surrogata può cambiare idea, tenersi il bambino una volta che lo mette al mondo. La mamma sei tu, mi rispondono. Lei è solo la portatrice. E sei tu che decidi tutto, anche se farla abortire. La legge ha più volte stabilito che lei non ha alcun diritto. Sarà scritto tutto nel contratto con l'avvocato. Una volta fatto l'accordo, si va dal giudice e si fa un atto di prenascita. Così è già chiaro che siete voi i genitori. E si può scegliere di tutti i tipi, tra le donatrici: bionde, brune, ricce, lisce, nere, asiatiche, bianche. Nella scheda delle madri, o meglio portatrici, come vengono chiamate, sono segnate età, altezza, peso, colore degli occhi, voti ottenuti a scuola, passioni, hobby, la storia clinica della famiglia. E quando nasce che succede? La devo lasciare un po' con la portatrice o lo posso prendere direttamente il bambino? Decidi tu, puoi stare nella stanza accanto e ti portano il bambino. Se vuoi la surrogata si tira al latte e tu glielo dai col biberon. I primi giorni fa bene al piccolo perché c'è il colostro e anche a lei perché tirandosi il latte aiuta l'utero a tornare a dimensioni normali. E insomma racconto di una visita in clinica di come avviene la procedura, la fredda procedura per avere un bambino con una maternità surrogata. Pagina 25 del Corriere della Sera. Ora devo fare una premessa, devo leggere questa notizia. Prima di farlo però devo chiedere se ci sono bambini all'ascolto. Bambini 5, 6 anni, 7 anni. Devo parlare di Babbo Natale, genitori. State portando già i bambini a scuola. Devo dire una cosa su Babbo Natale. Potete per favore un attimo girate pure. Poi ritornate. Tappate le orecchie. Vi ho avvisato. E poi non scrivetemi che devo dire una cosa importante su Babbo Natale, genitori. Lo so che il vostro bambino dice no, non fammi sentire, ha detto Babbo. No, voi non dovete fargli sentire questa cosa, va bene? Ad alcuni bambini. Siete pronti? Avete... Ok, posso leggere la notizia. Babbo Natale non esiste e il paese si ribella al parroco. Il prete dice ai bambini, è una leggenda, i genitori per protesta si travestono da elfi e invadono la chiesa. Succede in Val d'Aosta, lo racconta La Stampa con Daniela Giachino ad Anté Sant'André in provincia di Aosta. Parroco e catechisti raccontano ai bambini che Babbo Natale non esiste. I genitori scendono in piazza a protestare. Accade in questo incantevole borgo con vista sul Cervino all'inizio della Val Tournanche. Con il parroco che tra l'altro pare che abbia detto basta questa storia di dolciumi, di regali, date i soldi al parroco semmai, date regali al parroco, ma signor prete, signor sacerdote, signori catechisti, ma bisogna traumatizzare così i bambini raccontando questa menzogna, perché è chiaro che Babbo Natale esiste. Non si fa. Comunque a pagina 17 della Stampa raccontano questa vicenda. Babbo Natale non esiste, il paese si ribella al parroco. Vabbè, dai, andiamo al premio Mani sul Volante, il premio per l'articolo che mi fa fare della giornata. Eccolo qua. Pagateci o vi togliamo i bimbi. Sono protagoniste alcune ladre, rom, pizzicate a Milano dai poliziotti, ma questa volta a commettere il reato non sono solo loro che hanno rubato qualcosa, ma anche i poliziotti che ricattavano i ladri rom. Cioè dateci un po' della vostra mercanzia rubata o pagateci altrimenti vi togliamo i bimbi. Chiedevano di spartire il bottino in cambio del loro silenzio. Due poliziotti arrestati alla centrale di Milano, alla stazione di Milano. Salvatore Garzillo racconta su Libero che è una storia che va divisa in due: da una parte l'arresto delle borseggiatrici, dall'altro l'arresto di due poliziotti, considerate tra l'altro delle colonne per la loro passione in centrale. Sono sconvolti anche alla polizia a dire: ma erano le persone che ne arrestavano più di tutti, che dicevano in interviste ci mettiamo la passione in questo lavoro, eccetera. Accusati di spartirsi il bottino coi rom o addirittura di chiedergli il pizzo, non so come vogliamo definirlo, pagateci o vi togliamo i bimbi. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Oh Lino, dico, a te sei proprio imbriaco di mattina buona, no? Ma proprio sei imbriaco, te ne hai bevute ombre. Si sente, no? Si sente. Va. Chi è? Ma che è? Ma... Sono le meaz meno 10 minuti. Oh, mamma. No, vabbè, Vabbè, sarebbero le 7.34, se proprio vogliamo. Però capisco che ormai qui riscriviamo anche il tempo, va bene, sono le Meazza meno 10. Allora continuiamo a leggere i giornali. C'è questa battaglia diplomatica, non male, in Europa, tra Renzi e la Germania. Ebbene sì, perché nella riunione, si discuterà oggi di migranti, e nella riunione che c'è stata a porte chiuse con i colleghi del Partito Socialista, Renzi ha detto questa frase: basta con l'Europa a guida Germania. Basta con l'Europa tedesca. Questo è il titolo che trovate più gettonato sui giornali. Pagina 3 del Corriere della Sera, retroscena di Marco Galluzzo è questa: la denuncia del doppio standard. All'Unione Europea sanno tutti che la Germania viene prima degli altri, poi gli olandesi, il Lussemburgo, la Francia, tutti gli altri seguono a distanza più o meno ampia. Ieri a Bruxelles, però, in qualche modo Renzi ha rotto per la prima volta un tabù. Lo ha detto a porte chiuse al vertice dei partiti socialisti: mi son stancato di questa Europa in cui comanda Berlino. Il concetto è questo: c'è un accordo personale con la Merkel, diceva appena 3 mesi fa a Palazzo Chigi. In qualche modo però quell'accordo evidentemente è evaporato. La Commissione ha deciso di tenere l'Italia ancora sulla graticola, almeno fino a primavera, prima di dare il via libera a una legge di stabilità che piega la curva del deficit verso l'alto. Renzi non l'ha presa bene ed ecco allora l'idea di questo scontro. Tra l'altro, come racconta Ivo Caizzi, come racconta anche Repubblica, c'è sullo sfondo che cosa? Che Renzi ha chiesto di ridiscutere le sanzioni dell'Unione Europea alla Russia. La cancelliera Merkel ha replicato che non se ne parla e dietro cova un'irritazione, leggo dall'articolo di Caizzi sul Corriere della Sera pagina 2. L'irritazione di Palazzo Chigi perché? Perché a Bruxelles hanno di fatto bloccato il progetto russo-italiano del gasdotto South Stream, mentre sta procedendo il raddoppio del Nord Stream tra Germania e Russia. E quindi questo doppio binario non piace ovviamente a Roma. A Roma non è piaciuta nemmeno la concessione alla Fraport di Francoforte dei principali aeroporti turistici della Grecia, quando il governo di Atene sarebbe tracollato senza il sì di Berlino agli aiuti europei. Insomma, è un Renzi molto arrabbiato nei confronti della Germania e lo ha detto chiaramente. Vedremo ora che succederà dal punto di vista pratico in questo vertice, in cui si discutono anche di cose importanti riguardo ai migranti. Veniamo all'Italia invece. La questione banche tiene banco, come si dice da qualche giorno, e soprattutto oggi alle 9, credo alle ore 9, c'è la seduta alla Camera in cui si discute la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Maria Elena Boschi. Anche se la notizia è quella di affidare gli arbitrati sulle banche per le persone che sono state truffate a Cantone, con tanto anche di ironia che si è propagata sui social. Insomma, Cantone sembra il risolutore di tutto. Prima un ascoltatore ci ha scritto anche: sono in ritardo con i regali di Natale, ci penserà Cantone. Va bene, insomma, a parte le battute, la mossa di Renzi è questa. Tra l'altro c'è stato un incontro di un'ora, un faccia a faccia tra Renzi e lo stesso Cantone ieri a Palazzo Chigi, e poi la decisione di affidare ad un organismo dunque terzo, dunque né alla Consob né a Banca Italia, l'arbitrato unico tra le banche saldate e i risparmiatori. Cantone poi ha subito affidato l'incarico al professor Ferruccio Auletta, che insegna procedura civile, ai 4 consiglieri che fanno parte della Camera Arbitrale, cioè insieme ad Auletta sono Ugo Draetta, Giovanni Fabio Licata, Alberto Massera e Luca Mezzetti, mentre lui, Cantone stesso, pur non intervenendo direttamente nell'esame dei ricorsi, sarà il garante del buon funzionamento di questa Camera Arbitrale. Dunque funzionerà così. Mentre sul fronte dell'indagine va segnalato anche il fascicolo che è stato aperto dal CSM. Il CSM è l'organo di autogoverno dei giudici, il Consiglio Superiore della Magistratura. Il fascicolo del CSM è aperto sul fatto che si è scoperto nei giorni scorsi che il procuratore capo di Arezzo, Rossi, è anche consulente del governo. E insomma, si vuole vedere chiaro, ci vuole vedere chiaro in questa consulenza, visto che la procura di Arezzo è proprio quella che indaga su Banca Etruria. La questione politica invece, Maria Elena Boschi, come detto, oggi dovrà affrontare l'aula, o come abbiamo detto prima, sarà solo la discussione alla Camera e non al Senato. Questa è una questione tecnica, ma racconta il Corriere della Sera con Monica Guerzoni a pagina 10, il bis al Senato della mozione di sfiducia non ci sarà, perché la Boschi ha fatto verificare dai tecnici che mai una sfiducia individuale è stata votata sia al Senato che alla Camera. Questa è la prassi. Dunque, se la richiesta di dimissioni verrà discussa, come viene discussa a Montecitorio, e verrà respinta, non ci sarà il bis al Senato. E il commento nell'entourage della Boschi è: e tanto peggio per il Movimento 5 Stelle se ha sbagliato a presentarla alla Camera. Comunque, la Boschi viene definita tranquillissima, serena, determinata a uscirne a testa alta, e soprattutto questo titolo sul Corriere della Sera: noi non siamo i Berlusconi d'Arezzo. Ci dipingono così, ma siamo invece una famiglia semplice che ha origini contadine. Questo nel retroscena di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Però certo, questa vicenda lascerà molti strascichi, come racconta Goffredo De Marchis a pagina 2 di Repubblica nel retroscena, il cui titolo è «Non ho scheletri nascosti», ed è una frase attribuita a Renzi. Che cosa dà fastidio di tutta questa vicenda? È che il caso Banca Etruria ha agitato moltissimo il Premier, perché rischia di intaccare la narrazione, lo storytelling delle origini renziane. Non a caso le tre personalità forti del renzismo, cioè lo stesso Renzi, la Boschi e Luca Lotti, si vantano di essere gente del contado, periferici alle grandi città, estranei a certe logiche del potere, uno di Rignano sull'Arno, l'altra di Laterina, Lotti di Montelupo Fiorentino, venuti su dal nulla, insomma. Non poteva dunque esserci un avvitamento mediatico peggiore delle storie di babbi, cioè dei loro genitori, di intrecci familiari con banche e aziende. Questo racconta Repubblica pagina 2. Lo storytelling, bellezza, e lo sappiamo. A proposito di storytelling, oggi Libero con Giacomo Amadori racconta un'altra storia che riguarda intrecci di parentele. Gli amici del Giglio Magico sbarcano in Cina, la storia di una microscopica SRL di Firenze che sta per dar vita a una mega città della enogastronomia italiana vicino a Pechino, e i soci sono l'italo-cinese Zheng e, fino a settembre, tra i soci anche il cugino di Renzi. È una storia molto intricata, molto complicata, di società, eccetera. Giacomo Amadori la racconta a pagina 6 di Libero. Per quel che riguarda le banche, invece, ci sono anche i primi nomi. Per esempio, Il Giorno racconta della liquidazione di 1 milione di euro a Luca Bronchi, ex direttore della Banca Etruria durante la presidenza Fornasari. 1 milione con cui fu liquidato. C'è anche Alberto Statera che racconta, da Gelli agli ex democristiani, l'ombra del patto tra cattolici e massoni per dividersi Etruria. Quindi una storia che racconta Statera su Repubblica pagina 11, di massoneria e banche e Arezzo. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti. Ma ora è il momento. È il momento. Ancora. Ma che è? Che sì? Sono le Meazza in punto. Eccoci qui. Buongiorno Mauro. Buongiorno Alessandro. Mi pare che abbiamo voluto sottolineare la nostra vocazione all'informazione di servizio, quindi per agevolare tutti coloro che si regolano su questa nostra chiacchierata, abbiamo così ufficializzato il segnale orario. Bene, forse ci stiamo un po' allargando, Alessandro, non vorrei che avessimo un po' esagerato. Va bene, volevo dirti, caro Alessandro, stai trascurando la stabilità? No. Però guarda, sai che è arrivata a 993 commi? Ah, pochi. Pochi commi, non è un record ancora, perché abbiamo avuto leggi di stabilità più lunghe, però 993 è un buon numero, certo. Diciamo. Ma un 100.000 euro per noi non capita questi. Guarda, li stiamo ancora finendo di leggere. Ti posso dire però che tra i 993 comici sono le novità importanti, come leggi oggi sul Sole 24 Ore, ad esempio per i pensionati. Sai che c'è sempre il timore che finché la crescita del paese non riprende, le pensioni diminuiscano. Questa cosa viene scongiurata. Cioè tra i 993 comici c'è anche una disposizione che dice: se anche l'indice dei prezzi cala, le pensioni non caleranno. Questo è scritto, l'abbiamo trovato nei 993 commi, l'ha trovato Matteo Prioschi. Altri cercatori di commi come Davide Colombo e Marco Rogari invece ti spiegano come si stia ancora lavorando a ulteriori modifiche per il Sud. Adesso trovi tutto sul Sole 24 Ore di oggi, non ti voglio tediare, però tra i vari 993 commi devi anche sapere che non sarà prevista la fiducia. Invece tu ti eri completamente dimenticato, colpevolmente, della riforma Madia, della riforma della pubblica amministrazione. Ammettilo. Ammetto un pochettino. Per rinfrescarti la memoria. Sai, ieri ero inebriato dalle serate di coppa, cose che tu non puoi capire. Vabbè, dai. Mi sembra che sia stata un'affermazione importante, no? E poi c'è una trasferta impegnativa domenica alle 18 per voi, sì, no? Va bene. Andiamo avanti, volevo dirti che la riforma della pubblica amministrazione si prepara alla fase attuativa e allora vi anticipiamo oggi su Sole 24 Ore ad esempio come si sta preparando il decreto attuativo per le autorizzazioni, che è molto importante perché imporrà un silenzio assenso nei 60 giorni, cioè o l'amministrazione risponde oppure si va avanti. Questo sarà un cambio molto molto importante nelle tradizioni, ma ti spiegano tutto le pagine Sole 24 Ore di oggi, Davide Colombo e altri che appunto si esibiscono sul tema. L'export non va benissimo, lo riferiamo in imprese e territori, un po' meglio, sai che oggi essendo venerdì c'è Moda 24, un po' meglio l'export per quanto riguarda la cosmetica. E poi naturalmente ti voglio segnalare che nelle pagine iniziali abbiamo anche una bussola per i risparmiatori dopo le recenti decisioni della Federal Reserve, l'ho detto mi sembra con una certa proprietà anche di pronuncia. Religiosamente leggerai per prepararti a una serena domenica calcistica, religiosamente leggerai norme e tributi, che sempre ti fa bene. Allora, lì troverai una puntuale disamina delle novità della legge di stabilità appunto sulla parte delle verifiche fiscali. So che ci sono anche delle polemiche dal punto di vista politico, ti spieghiamo in norme e tributi come funzionerà la nuova tempistica degli accertamenti fiscali. E poi abbiamo visto le bozze del 7.30 dell'anno prossimo. Forse c'è anche qualche sconticino nuovo, chissà, potrebbe esserci anche qualche sconticino nuovo che debutta, vedremo. Per il momento io ti auguro una serena domenica, non so se devi rimettere il segnale orario, ci ha messo almeno 10, ci attrezzeremo a questo punto. No, va bene, ma possiamo anche lasciarlo come uno splendido unicum nelle nostre chiacchierate. Ripeto, ti auguro una serena domenica calcistica e soprattutto, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, il Angela Merkel dell'informazione. Va bene, allora è stato un trionfo. Grazie, sono arrivato al lavoro prima del traffico. Damiano da Roma, evviva. Alle Meazza 1:15 inizia la mia lunga giornata lavorativa. Un altro ascoltatore. Sono due Meazza primi in ritardo, questo l'ho capita poco, comunque Meazza time, non sono ancora sul ponte della Ghisolfa, Paolo, dunque a Milano, sono in straritardo, Nino da Vercelli, tutti, ognuno che regola la propria giornata in base al nostro orario, come ci scrive un ascoltatore, siamo pazzi a lanciare il Meazza 10 minuti prima del rendezvous, era il Meazza meno 10, quindi insomma Umberto. Era le Meazza meno 10, regolati di conseguenza, caffè veloce e via che si parte. Allora, intanto la vicenda banche non è che lascia problemi e strascichi solo nel PD, che ne dite del centrodestra, dove la vulgata vuole che questo litigio tra Brunetta e Renzi abbia fatto scoppiare Renzi a dire facciamo l'accordo con il Movimento 5 Stelle sulla consulta. Però adesso è Brunetta che è sotto processo, lui si difende con due interviste, una alla Stampa, una Repubblica. quella su Repubblica è spettacolare, è il Brunetta dei bei tempi. Tommaso Ciriaco lo intervista a pagina 19, eccolo qua. Io, come fa a dire che mi ha messo in difficoltà? Ho fatto il mio mestiere, è lui il premier che ha perso, è isolato lui. Lei invece mi fornisce una lettura banale, dice Brunetta a Tommaso Ciriaco di Repubblica. E poi eccolo qua il Brunetta, ma guardi che chiede Repubblica, la criticano anche i suoi colleghi a partire da Paolo Romani. Chi? Paolo Romani, chi? Chi? Chi? Il capogruppo al Senato? Non lo conosco, non lo conosco. Vabbè, questo è il Brunetta che ci piace, no? Vuole la verità? Renzi fin dall'inizio puntava all'accordo coi 5 Stelle, erano i grillini a non volerlo e con la vicenda Boschi hanno trovato la foglietta di fico per dire sigliamo l'intesa. Va bene, e quindi Romani è lui che è fuori linea, non io. Ecco, a testimonianza che il clima non è dei migliori all'interno del centrodestra. Mentre anche il Movimento 5 Stelle non è che se la passa benissimo. Questo accordo o questa votazione alla Consulta non ha lasciato nella base del Movimento 5 Stelle tutti soddisfatti. Falsi e inciucioni, la rivolta del popolo grillino. Questo è il titolo di pagina 18 di Repubblica. Ha vinto il metodo 5 Stelle, assicura il blog di Grillo, ma la base contesta l'intesa in Parlamento. Tanto che Roberto Fico, presidente Commissione Vigilanza Rai del Movimento 5 Stelle, fa un'intervista al Fatto Quotidiano, Luca De Carolis lo intervista e lui dice: per noi è stato difficile, ma è la Consulta che serviva. Abbiamo fatto una scelta, l'abbiamo presa guardando al futuro. Se avessimo detto di no, di certo sarebbe arrivata una terna peggiore. Noi abbiamo proposto Franco Modugno, scelto dai componenti della Commissione Affari Costituzionali. Abbiamo sempre puntato a una terna di qualità, quella con Barbera, un centrista, e il forzista Sisto non poteva passare. Così il Movimento 5 Stelle ha tenuto il punto senza cercare accordi di sottobanco. Però poi avete accettato Barbera. Il vero problema era la sua vicinanza al PD. Di certo non è il nostro nome ideale, ma contiamo sulla sua indipendenza di azione quando diventerà giudice. Questo Roberto Fico. E comunque dice: Barbera ha un curriculum importante e non è Luciano Violante. Difende comunque Fico la questione del dire: non c'è stato alcun accordo col PD, ci hanno detto pubblicamente i nomi e noi abbiamo risposto. Vabbè, la vicenda politica c'è. A proposito di riforme invece o di votazioni, me ne è saltata una ieri, c'era la riforma della RAI, si discuteva al Senato, hanno fatto questo piccolo errore, hanno discusso la riforma della RAI al Senato alle 19:20 del giovedì. Il sacro weekend lungo non è compatibile con le votazioni al Senato. E quindi saltata la riforma della RAI, assenze, segnali al governo, titola il Messaggero. Ma in realtà, più che segnali al governo, come racconta Repubblica, erano senatori in fuga per il weekend. Non è tanto il segnale al governo, è che slitta l'ok finale alla riforma RAI, come racconta Repubblica, perché si è votato troppo in là nel pomeriggio del giovedì. È il sacro weekend lunghissimo. Ma non era... non avevano detto la Boldrini e Grasso che come prima cosa avrebbero fatto in modo di far lavorare i senatori alla Camera 7 giorni, 6 giorni, 5 giorni, 5 giorni come tutti gli italiani? Bah, me lo devo essere sognato io. Me li ricordo a Ballarò, proprio il giorno in cui sono stati eletti. Ma devo aver avuto una visione, non lo so. No, deve essere qualcosa che... devo aver mangiato pesante ieri. Va bene, game over per Mourinho, eccolo qua. Niente titoli quest'anno e se ne va con 12 milioni di stipendio pagato, però fino alla fine dell'anno. Ma eccoci qui, la carta costa, no, ancora dopo la pagina di Scanzi ieri su Cruciani, la pagina di Facci ora oggi di Libero che parla di Cruciani attaccato da Scanzi. Oh, ma chiamatevi, ma chi se ne frega.